La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 8 di dicembre e l'Immacolata, grazie a chi ascolta in diretta o in podcast, lo so, siete in vacanza, forse oggi siete di meno, e comunque sia, grazie a tutti. E di che cosa parliamo oggi? Oggi è la classica puntata più di approfondimento che per chiedervi di intervenire. Naturalmente vi dico subito l'argomento e se avete una qualunque opinione da darci siete benvenutissimi, 800 24 0024, per gli sms lo sapete 349 238 6666. Oggi è una puntata dedicata a una figura di straordinario rilievo nella storia italiana e che ha avuto, come capita a alcune figure straordinarie nella storia italiana, di non aver raccolto i consensi da una parte, ma soprattutto gli epigoni dei successori all'altezza del suo pensiero. È un pensiero molto importante e questa persona pochi giorni fa, alla fine di novembre, per la precisione il 27 di novembre, anzi no, il 24 di novembre, si è conclusa anche la fase diocesana della sua causa di beatificazione, e quindi è giusto chiamarlo servo di Dio, ma stiamo parlando di Luigi Sturzo. Ecco, oggi è una puntata dedicata a Luigi Sturzo, al suo pensiero, all'importanza delle cose straordinarie che ha fatto, e ci porremo anche una domanda. Come mai nel mondo cattolico italiano, nel mondo della politica italiana, dopo la sua morte, che arriva alla fine degli anni 50, il segno straordinario della sua azione, del suo pensiero, è sembrato senza eredi? Ecco, noi ne parleremo con degli ospiti che naturalmente conoscono bene la personalità di Luigi Sturzo. Io vi posso richiamare, dirò solo brevi cose per richiamare a chi magari sarete in tanti, ne sono sicuro. Sì, forse Luigi Sturzo vi dice qualcosa, ma non avete ben chiara l'idea di che cosa. E probabilmente adesso, pensando al processo di beatificazione diocesana che si è concluso, alcuni di voi diranno: ma che parlate dei santi e della Chiesa? No, parliamo di un prete, che però ha lasciato un segno straordinario nella storia italiana, non raccolto, per così dire. Se volete approfondire, io vi cito alcuni dei libri che a mio modestissimo giudizio è utile procurarsi e leggere per avere un'idea che inquadri, contestualizzi e spieghi anche l'importanza di Don Luigi Sturzo nella storia italiana. Innanzitutto quello che gli dedicò Gabriele De Rosa, Luigi Sturzo, alla fine degli anni 70, nel 1977 mi pare. Gabriele De Rosa poi ha scritto più volte anche di Luigi Sturzo, ma quello è un volume dedicato a lui. Più recentemente, quello che a me è piaciuto molto, che viene considerato, insomma, un testo di riferimento, è quello che 13 anni fa, uscito per Mondadori, gli ha dedicato Gabriella Fanello Marcucci, e il titolo è Luigi Sturzo, vita e battaglia per la libertà del fondatore del Partito Popolare Italiano. E poi è uscito per Flaccovio di Palermo e anche ristampato poi dal Sole 24 Ore del 2013, Luigi Sturzo di Eugenio Guccione. Allora, Luigi Sturzo in poche parole per darvi un'idea di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un siciliano innanzitutto, quindi di Caltagirone, di cui è stato anche vice sindaco fino al 1920, di un siciliano che però fa dell'impegno sociale e poi anche in senso più ampio, pur avendo cominciato in anni in cui c'era ancora il non expedit, cioè il divieto formale delle gerarchie ecclesiastiche italiane, l'impegno politico dei cattolici, perché era ancora risolta la questione romana, lo rimarrà fino al 1929, naturalmente, al patto con Mussolini, i patti lateranensi. Eppure questo particolare sacerdote, in nome della dottrina sociale della Chiesa, di cui dà una interpretazione profondissima, inizia subito a darsi da fare in Sicilia, nella sua area, con casse rurali, mutue cooperative, cioè si dà straordinariamente da fare per piccole imprese e per il sostegno del credito a chi ha meno. Ecco, e inizia subito a farsi notare, per così dire, per questa sua azione sociale di segno molto forte, di un segno che rimarrà sempre prima caratteristica del suo pensiero, per nulla persuaso del movimento collettivista. Sturzo vedrete che pronuncerà dei giudizi sul comunismo e il socialismo radicali, molto critici, non ci crederà. Lui crede nell'individuo e crede nella cooperazione degli individui, crede che questa sia una leva del tutto in linea con l'insegnamento della Chiesa Cattolica, rimarrà fortissimamente contrario all'idea dello Stato padre, per così dire, dello statalismo di ogni segno, pur naturalmente accettando l'idea che lo Stato abbia dei ruoli fondamentali. Ma è una coerenza che si vede fin dalle sue prime azioni sociali. A quel punto chiederà a un certo punto di fare il missionario, di essere mandato in Cina dopo la ribellione dei Boxer, però le gerarchie non lo mandano, diventa consigliere provinciale a Catania e qui siamo nel 1905, pronuncia il suo primo grande discorso, i problemi della vita nazionale dei cattolici, in cui si pone il grande problema di superare il veto, per così dire, per la questione romana all'impegno politico. Ed è lì la radice di quello che poi sarà il Partito Popolare, di cui diventerà un fondatore e un protagonista nel 1919, il famoso appello ai liberi e ai forti, che vale la pena di essere riletto perché è un testo fondamentale della storia italiana. E il Partito Popolare, di cui è uno dei cofondatori, immediatamente nel 1919 e nel successivo biennio identifica con una chiarezza quasi profetica, direi, il fatto che non c'è e non ci deve essere alcuna possibilità di convergenza e di collaborazione con il fascismo. Naturalmente questo significa, formalizzata questa posizione di Sturzo nel 1923 a uno dei congressi del Partito Popolare, significa che immediatamente Mussolini lo mette nel mirino, brutalmente. E convincendo anche la gerarchia della curia romana, che a quel punto Sturzo con quella posizione politica diventa un problema che rende insolubile la questione romana, ecco che di lì si pongono le premesse per una specie di primo disconoscimento di Sturzo, che a quel punto decide di lasciare la politica, ma decide di lasciare l'Italia, perché dal 24 al 40 sarà a Londra, a Parigi, a New York. Rientrerà in Italia solo dopo il referendum del 46 e sarà una delle figure di riferimento, come Arturo Toscanini, come Carlo Sforza, come Gaetano Salvemini, dell'antifascismo militante in tutti questi anni. Militante nel senso che i suoi scritti, i suoi tanti appelli ai paesi di cui è ospite e dove si svolge il suo apostolato saranno sempre allineati a la convinzione che il fascismo crollerà dopo aver travolto l'Italia in un grande disastro. Avverrà puntualmente così, ma lui lo diceva da prima che il fascismo si costituisse come potere totalitario, per poi rifondare l'Italia su diverse basi. Il problema è che rifondare l'Italia su queste diverse basi non vede Sturzo aderire formalmente alla Democrazia Cristiana. E anzi, proprio i suoi articoli, che a quel punto scrive già da decenni, improntati a una specie di profezia, di cui vi leggo solo un segno, e la profezia secondo me si legge chiaramente nel fatto di ciò che scrive ad Alcide De Gasperi all'indomani della straordinaria e per molti inaspettata vittoria della Democrazia Cristiana nel 1948. Ebbene, lui all'indomani di questa strepitosa vittoria della DC, che poi sarà il segno della politica italiana, scrive a De Gasperi: e guarda, io non sono per niente d'accordo con questa lettura. Vi leggo, questa è una lettera di Don Sturzo a De Gasperi all'indomani del 18 aprile. Caro Alcide, sta parlando De Gasperi, questo che tu definisci un trionfo elettorale della DC è invece l'inizio della democrazia imperfetta, cioè senza regolare alternativa per il buon governo dell'Italia. In questa prospettiva il PSI perderà sempre più voti a favore del PC, che monopolizzerà la contestazione sino a proporsi come forza politica alternativa alla DC, la quale nel frattempo e nel tempo sarà tentata da tutti i mezzi, leciti e illeciti, per consolidare il suo potere. Ecco, questa era la lettura di Sturzo di ciò che avviene nelle elezioni in cui gli italiani trionfalmente fanno della Democrazia Cristiana il perno del paese. Pensate con quanti decenni di anticipo vede poi il travalicare della Prima Repubblica in ciò che quel giorno lui scrive. Allora, le opere, ma soprattutto i pensieri scritti di D'Osturzo e i suoi discorsi sono pieni di cose di questo genere. Cioè, scriveva della certezza della fine del comunismo quando nessuno avrebbe mai potuto immaginare un orizzonte diverso dal mondo diviso in blocchi. Scriveva della degenerazione dello Stato proprietario nell'economia quando nessuno poteva anche solo lontanamente immaginare che cosa avremmo dovuto fare, per esempio, per liquidare l'IRI. Ma lo faceva da un punto di vista tenacemente coerente a una linea di crescita sociale del nostro paese, senza contrapposizioni frontali. Non esistevano nemici, dopo il fascismo, altrettanto nemici del paese. Naturalmente i suoi giudizi però lo hanno reso, di fronte a un'interpretazione diversa della dottrina della Chiesa nella politica italiana, una specie di scomodo personaggio. Diventa senatore a vita, nominato da Luigi Einaudi nel 52, continua a scrivere contro la partitocrazia, contro l'immoralità di un paese e la corruzione che lui vede associato a un modello politico e partitocratico che non gli piace, ma nella realtà dei fatti è un prete scomodo. Indro Montanelli, richiesto da un suo lettore: ma un giorno, decenni fa, lo Stato lo farà santo? Dice: ma state scherzando, le gerarchie della Chiesa italiana da prima del fascismo, durante il fascismo e dopo il fascismo, tranne l'operazione Sturzo, a cui lui obbedì come sacerdote, in realtà hanno sempre considerato Don Sturzo un rompiscatole. Questa fu naturalmente la ruvida definizione di Montanelli. Allora, leggete, questa è l'occasione della trasmissione di oggi, se siete interessati a capire di più, un libro di Rubettino che è appena uscito ed è in occasione anche appunto del fatto che la causa di beatificazione a livello diocesano è andata avanti e adesso ci sarà quella superiore per la beatificazione. L'autore è un personaggio a propria volta particolare, Giovanni Palladino. Giovanni Palladino da 20 anni è diventato il custode della memoria, uno dei custodi della memoria di Don Sturzo, con il Centro Internazionale di Studi Sturziani, ed è figlio di un economista, Giuseppe Palladino, che fu uno dei più diretti collaboratori negli ultimi anni di Don Sturzo, quindi ha raccolto una fiaccola, per così dire, personale. Il libro si intitola Don Luigi Sturzo, maestro di verità e di libertà. Ha la prefazione di Marco Vitale, che da sempre nei decenni ha tentato di tenere viva nella vita italiana la memoria delle battaglie e la figura di Don Luigi Sturzo, e con noi appunto per parlarne all'inizio Giovanni Palladino, e io lo ringrazio di questa cosa che ci ha regalato, di questo nuovo libro. Buon pomeriggio Giovanni, buona festa dell'Immacolata. Buon pomeriggio. Si è dimenticato di dire che Sturzo è stato un grande sindaco di Caltagirone per 15 anni. Infatti, ma figurati quante ne ho dimenticate. È un po' difficile star dietro a tutto quello che ha fatto, certo, Luigi Sturzo. È stato, certo, giudice dell'Alta Corte Siciliana, è stato una quantità di cose. Io ti chiedo subito, al di là di questo libro che testimonia fin dall'inizio l'iniziale idea della beatificazione e così, ma nella realtà, perché nella tua esperienza di questi 20 anni, tutte le volte che si è tentato di riaccendere la fiaccola del pensiero sturziano, qualche premessa si è vista talvolta, ma poi non prende? Come mai? No, mio padre, che fu il suo esecutore testamentario, cercò subito di far aprire il processo di beatificazione, ma si trovò davanti un vento contrario. Io lo imputo al fatto che nel 52, quando Einaudi lo nominò senatore a vita per i suoi grandi meriti scientifici, e lui si iscrisse al gruppo misto, non si iscrisse al gruppo DC, cioè diede uno schiaffo alla Democrazia Cristiana, ma fu uno schiaffo che nelle sue intenzioni doveva essere benefico, costruttivo. Cioè lui disse: io voglio essere indipendente, io sono un sacerdote, non un politico, e vi aiuterò a seguire la via giusta. Se doveste prendere la via sbagliata, io sarò libero di dirvi: attenzione, sbagliate. Il suo grande cruccio era appunto la temuta apertura a sinistra. Lui ormai negli ultimi anni di vita era convinto che la DC avrebbe spersato a sinistra, quando invece lui diceva: siate voi stessi, invece di guardare a destra o a sinistra, attingete al vostro prezioso patrimonio culturale, un patrimonio moderno e adatto all'Italia di oggi e di domani. Non cedete alle chimere dello statalismo e delle nazionalizzazioni, mantenete ben ferma la barra al centro e lavorate per fare avvicinare al centro le ali estreme dello schieramento politico. Cioè lui diceva non deve essere la DC che va a destra o a sinistra, ma deve essere la destra e la sinistra ad andare verso il centro dove c'è il vero patrimonio culturale adatto al paese. E resta il fatto che però la Democrazia Cristiana era diventato poi l'artefice della ristatalizzazione dopo Fanfani, prima ancora dell'apertura ai socialisti dell'economia italiana. L'economia italiana nei 16 anni, dal 46 al 61, accumula quel più 500% del reddito pro capite rispetto all'800% che abbiamo guadagnato nei 150 anni unitari, quindi sono i 15-16 anni straordinari della storia italiana che si rimettono all'onore del mondo, supera la sua impostazione agropastorale, diventa grazie al capitale fisico e finanziario dello Stato, e questo va riconosciuto nei primi 15 anni, una potenza con una moneta solidissima, l'Oscar della lira e così via. Però il problema è che poi dopo la Democrazia Cristiana diventa molto diversa da quella che sognava. Sì, lui vedeva bene dietro le quinte, cioè lui non guardava il palcoscenico, lo spettacolo, lui vedeva che dietro le quinte si stavano muovendo forze che avrebbero portato la DC verso il socialismo. Quindi verso, cioè uno stato imprenditore e arbitro del gioco. Lui diceva non si può essere arbitro e giocatore allo stesso momento, finirà che lo Stato farà male sia l'arbitro che il giocatore. Quindi fu un grande profeta e lui c'è poco da fare, oggi è il vincente, lui muore perdente perché appunto nei decenni successivi il paese si affida allo stato imprenditore, banchiere, assicuratore e così via. Oggi risulta vincente perché hanno capito un po' tutti, innanzitutto anche la Chiesa, perché la Chiesa, vi ricordo, ha avuto nei suoi confronti, appunto, l'ha detto lei poco fa, il rimprovero era di rompere le scatole alla Democrazia Cristiana, tutto qui. Mentre lui era un rompiscatole costruttivo, ecco, lo faceva per il bene del paese, ecco. E quindi oggi risulta vincente. La Chiesa, dopo 22 anni di analisi, 154 testimoni in tutto il mondo, siamo andati in America, Inghilterra, Francia, Italia ovviamente, io ho seguito tutta la causa in prima persona con il giudice istruttore, quindi mi sono arricchito enormemente culturalmente. Io oggi forse conosco più Sturzo di mio padre, perché lui è stato con Sturzo 3 anni, io 22 anni, nel senso che ho vissuto in prima persona e ho sentito con le mie orecchie testimonianze fantastiche, quindi ho capito che grande sacerdote era e ho capito anche meglio mio padre, perché mio padre era così duro e così deciso, diciamo, a vincere la partita della beatificazione. Ecco, lui è morto nel 94 e ci sono riuscito io. Vedrà che sicuramente dopo Tommaso Moro Sturzo sarà il secondo uomo politico che la politica, diciamo, potrà rivolgersi a lui, insomma. Io me lo auguro davvero. A me capita spesso di twittare delle citazioni di Don Sturzo, c'è il decalogo del politico, per esempio, che è una roba che sembra scritta oggi, a cominciare dal fatto che il politico non si deve circondare di adulatori, perché gli adulatori gli mascherano la realtà e da quel momento lo condannano a sbagliare di più, ma insomma ci sono delle cose di una infinita saggezza. Ma soprattutto, cari ascoltatori, è incredibile nel passare dei decenni la capacità predittiva, cioè la profondità dell'analista pubblico sociale che Sturzo rivela, perché ripeto, la lettera che scrive a De Gasperi nel 18 aprile dicendo guarda che questa è la premessa di un disastro, non ti illudere, ripeto, sono parole di una pesantezza incredibile. Posso visto quello che è successo. Le prime due regole del buon politico secondo Sturzo, esatto. Lui dice la prima regola dell'attività politica è essere sincero e onesto, prometti poco e realizza quel che hai promesso. La seconda regola, se ami troppo il denaro, non fare attività politica, punto. Quindi insomma è tutto un... Ci siamo capiti, ecco, per così dire. Allora, ci ha raggiunto Carlo Lottieri. Carlo Lottieri è un filosofo della politica, è un accademico a Siena e così via, però è anche un liberale impegnato da questo punto di vista, cioè non maschera il suo orizzonte culturale a cui fa riferimento. Carlo Lottieri, grazie di essere con noi, ma la domanda è... Che cos'è? È un cristiano liberale? È un rosminiano trapiantato nei nostri tempi? O semplicemente un incompreso perché il suo popolarismo forse doveva essere il pilastro fondamentale che però nella politica è stato travolto da quello che la Democrazia Cristiana nell'esercizio del potere ha preferito? Secondo lei come lo definirebbe? Io userei la sua definizione, lui disse: sono un sacerdote, non sono un politico. Cioè, lui è essenzialmente stato un cristiano. E se è stato liberale, è stato liberale perché è stato, come dire, rigorosamente cristiano in qualche modo. Questa è la convinzione che mi sono fatto di Sturzo. Nel senso che sia il suo municipalismo, cioè l'attenzione al vicino, alle comunità, la capacità di autogoverno, quindi la responsabilità, sia il suo antistatalismo, che è fortissimo soprattutto quando torna dall'America, cioè nel dopoguerra, quando, come è stato detto, entra in forte conflitto con la Democrazia Cristiana e con la classe dirigente dell'epoca, sono legati a un'idea di persona, un'idea di società che muove dall'ispirazione religiosa e che di fatto diventa liberale per coerenza, come dire, non so. Quindi essenzialmente io vedo in lui questa preoccupazione da pastore nei confronti della società che lo porta a rifiutare lo statalismo, nel momento in cui capisce che lo statalismo, nelle varie forme del totalitarismo, ma anche dell'interventismo statale nelle società democratiche, è davvero minaccioso per lo spirito degli uomini alla fine. Era anche un anticentralista la sua polemica ai tempi della Costituente per la scelta, sì, di mettere queste regioni, poi le regioni non verranno attuate fino al 1970. Lui aveva un'idea radicalmente diversa rispetto al ruolo che molti considerarono trainante e senza alternative dello Stato centrale, perché bisognava rimettere in piedi l'Italia. Lui diceva: guardate che nel lungo tempo scoprirete che è un disastro. Certamente fu anche un meridionalista in questo senso. D'altronde bisogna pensare al cattolicesimo di un secolo fa, in qualche modo, no? Bisogna pensare al cattolicesimo uscito dall'occupazione di Roma, dalla debellazio, di fronte a uno Stato nemico, un Stato palesemente che è anticattolico nelle sue origini e nella sua formazione. E quindi lui da un lato vuole difendere il Mezzogiorno, la sua Sicilia, come dire, che ha diritto di autogovernarsi, ma si rende conto poi, soprattutto progressivamente, che i problemi anche di sviluppo delle proprie terre in generale del Mezzogiorno sono legati alla possibilità di un autogoverno. Tant'è che perfino una cosa che oggi ne guardiamo molto male per l'utilizzo successivo, cioè l'autonomia regionale siciliana, fu in larga misura legata anche a una sua opera, cioè lui fu molto attivo in quel senso e si arrivò a quello anche per la sua iniziativa. Poi le cose spesso vengono tradite nella loro pratica attuazione, esattamente, sì. Nel loro poi discostarsi nel tempo da ciò che dovevano in realtà garantire nella migliore e opposta attuazione. Perché lui avrebbe voluto, come dire, sia un'autonomia di spesa, naturalmente, che un'autonomia fiscale, una responsabilità. Ci sono frasi famosissime di quelle, appunto, da twittare, in cui lui dice: lasciate noi meridionali, esatto, compiti gestirci da soli, non aiutateci, eccetera, lasciate invece che dal sud emergano le risorse migliori, se creiamo le condizioni noi sapremo arrangiarci. Che a dire la verità meglio. Resta il mio punto di riferimento, oggi di fronte a chi chiede no, più trasferimenti, quando capiremo dopo decenni di trasferimenti, per come sono avvenuti, non per idee, ma per come sono avvenuti, che cosa hanno generato, che il bilancio è negativo e bisogna avere un'altra prospettiva, secondo me sarà sempre troppo tardi rispetto alla quantità di risorse che abbiamo bruciato. Adesso andiamo a vedere cosa accade sui mercati, un po' di pubblicità e poi torniamo, ci aggiungerà anche un terzo ospite, Paolo Pombeni. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare di Don Luigi Sturzo, straordinario italiano, almeno per me, un straordinario esempio di sacerdote, attore sociale, pubblico, politico, considerato molto, però, come devo dire, eterodosso ai suoi tempi, intransigente, lucidissimo antifascista, critico da sempre dell'idea degli eccessi dello Stato e dei mali che avrebbero portato, personalista, la sua visione è fondata sull'individuo, sulla persona, sulla libera cooperazione, critico della DC e abbiamo visto anche non troppo simpatico alla gerarchia, tranne in un'occasione in cui lo usano, la famosa operazione Sturzo a Roma, ma per il resto le gerarchie non si ritrovano nella sua tagliente opera di pubblicista che per decenni conduce dicendo pane pane, vino al vino, sia sì sì e sia no no, coerente a una sua visione di dottrina sociale e però a una sua visione dell'Italia, per così dire, e poi profeta nei suoi giudizi. Abbiamo visto alcuni suoi giudizi che decenni dopo si avverano. Allora ci ha raggiunto, oltre a Giovanni Palladino che è con noi dall'inizio, che è l'autore di questo libro di Luigi Sturzo, Maestro di Verità e di Libertà, Rubettino, che esce in occasione, tra l'altro singolarmente coincidente con la chiusura della fase diocesana della beatificazione di Luigi Sturzo, quindi col fatto che la Chiesa Cattolica torna finalmente a riconoscere il valore di Luigi Sturzo, disconosciuto per certi tanti versi in vita, e a Carlo Lottieri, al professor Lottieri, filosofo della politica. C'è raggiunto anche Paolo Pombeni. Paolo Pombeni è un professore emerito perché ha insegnato a Bologna fino all'anno scorso. E tra le tante altre cose che ha fatto, ha curato gli scritti, i discorsi politici di Alcide De Gasperi, e quindi insomma si è dedicato per molti anni della sua vita esattamente ad approfondire quel mondo rispetto al quale Sturzo aveva rapporti sia dialettici che anche di profonda, diciamo, perché con Alcide Gasperi il rapporto era molto forte, poiché entrambi erano stati due protagonisti dell'antifascismo cristiano italiano, chi in Vaticano e chi invece essendo esule nel mondo, come abbiamo ricordato. Grazie di essere con noi, professor Pombeni. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Perché dopo tutti gli anni che ha dedicato alle questioni della DC, al sistema politico italiano, perché Don Sturzo, non tanto allora ma neanche dopo, diciamo in questi anni di Seconda Repubblica, dopo la fine di Martinazzoli, dell'ipotesi centrista che non c'entrava più niente con la legge maggioritaria, ma perché il pensiero di Don Sturzo in realtà non ha riacceso un fuoco di iniziative direttamente riconducibili alla sua opera, secondo lei, Pombeni? Il problema è che in parte, come spesso accade agli uomini rilevanti, alcune sue idee sono diventate, diciamo così, pensiero comune, no? Anche alcune idee che possono essere così discutibili, come la crisi della partitocrazia, la polemica contro lo Stato imprenditore, dall'altro lato il discorso, diciamo così, democratico, la partecipazione popolare. Ecco, tutte queste cose sono cose che indubbiamente fanno parte del pensiero di Sturzo, ma che ormai fanno parte anche del pensiero di tante altre forze politiche, e hanno fatto parte anche del pensiero di altri uomini politici. Diciamo, completare però questa visione, bisogna dire che Sturzo, soprattutto nell'ultima fase della vita, ma in parte anche prima, aveva un modo molto pungente di porre le sue questioni, le sue antitesi, e quindi questo naturalmente non lo rende un pensatore facilmente utilizzabile per slogan, perché, ma questo è un suo merito naturalmente, è un pensatore che va sempre al fondo delle cose, no? E che quindi non lascia spazio alle mediazioni. E naturalmente nei momenti, come dire, di grande crisi, questo modo di affrontare le problematiche ritorna simpatico, ecco, usiamo questo termine. Nei momenti in cui invece si raggiungono livelli di consenso sociale un po' più ampio, questo modo, insomma, un po' urticante di porre i problemi è meno attraente. Ma quanto ha contato allora, e forse anche nel ricordo dei cristiani impegnati in politici, la durezza con cui si esprimeva, per esempio, a proposito del comunismo e dei suoi epigoni in tutto il mondo? Faccio un esempio, questa è una frase scritta sul Giornale d'Italia. Il Giornale d'Italia è una delle testate su cui più ha scritto negli anni, Luigi Sturzo, questa frase è del 23 ottobre 57 e Sturzo scrive, tagliando con l'accetta appunto il suo giudizio: il comunismo è uno di quei miraggi che non si possono realizzare e non si realizzeranno mai, neppure se attuato con la violenza e mantenuto con la forza. Ecco, è stato uno dei problemi per cui i cristiani impegnati in politica nel nostro paese non sono riusciti a farsi convincere da Sturzo? Questo credo di no, perché francamente perfino diciamo i comunisti italiani dopo una prima fase hanno ammesso che hanno ammesso magari in maniera un po' come dire nascosta che quel tipo di comunismo lì così non aveva nessuna possibilità di prendere piede, di diventare un sistema accettato. No, credo che il problema più grande sia stato quello che Sturzo è apparso, come posso dire, come la persona che quando finalmente si era ristabilita la democrazia in Italia, anziché correre nelle schede di quelli che volevano portare avanti questo tipo di discorso, ne è diventato l'acerbo censore. E questa cosa per anni naturalmente è stata poco ben vista, no? E anche la tradizione della sinistra democristiana, tipo appunto i Dossettiani, questi qui, non erano molto teneri nei confronti dello Sturzo, a cui non andava bene niente, insomma, sostanzialmente di quel che stava facendo nella Repubblica. Lo stesso De Gasperi lo aveva, che pure insomma lo venerava perché era stato il suo maestro, eccetera, eccetera, però aveva fatto di tutto per tenerlo ai margini perché non lo riteneva politicamente spendibile in un momento. Non era capace di mediare, insomma. Esatto, non era capace di mediare, quindi nel momento della ricostruzione non funzionava. Non funzionava. Richiamo un giudizio di un altro che non era proprio, diciamo, un grande maestro, è stato un grande maestro almeno per quelli che sono cresciuti nella mia cultura e lo resta a distanza di tanti anni, però anche lui, diciamo, aveva la penna e la lingua tagliente, Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini pronunciò tra i tanti nel suo libro autobiografico Memoria di un fuoriuscito questo giudizio su Luigi Sturzo: Don Sturzo, uno dei migliori acquisti della mia vita, parla Salvemini, è un Himalaya di certezze, egli crede nell'esistenza di Dio, di un Dio, badiamo bene, che non solo esiste chissà mai dove, Salvemini insomma era un laico, ma che è sempre presente a tutto quello che Don Sturzo fa, e Don Sturzo gliene deve rendere conto strettissimamente. Lui è convinto di questo immediatamente, oggi, ogni giorno, non nell'ora della sua morte, domani, nella valle di Giosafat. Perciò, concludeva Salvemini, Luigi Sturzo fa sempre quello che ritiene il suo dovere e su questo non transige mai. A proposito del fatto che appunto anche Gaetano Salvemini, che se ne intendeva di non transigere, riconosceva proprio quella qualità che il professor Pomeni ci ha appena ricordato essere stata forse una delle caratteristiche che meno ha giovato dal punto di vista del seguito politico delle idee di Don Sturzo nel nostro paese, ma soprattutto a cominciare da quell'area culturale dei cristiani impegnati nella società e nella politica italiana nell'immediato secondo dopoguerra. Torniamo dopo aver visto cosa succede sulle strade italiane. La versione di Oscar. Eccoci qua, e nei minuti che ci restano io farei una domanda sola a tutti i nostri tre ospiti, chiedendo a ciascuno di rispondere in due minuti e mezzo, e la cosa che mi interroga è una: io non ho avuto, ma posso sbagliare, questa è solo la mia opinione, molte difficoltà nel credere che nei tanti, oramai inizio ad essere numerosi, papi della mia vita, da Giovanni XXIII in poi, quello che ho trovato più in linea con quello che Don Sturzo pensava era Giovanni Paolo II. È stato Giovanni Paolo II e alcune delle sue encicliche sociali, che destano anche scandalo ancora adesso per alcuni giudizi che dà a favore dell'economia di mercato, era quello che mi sembrava più vicino, più direttamente confinante, come devo dire, non certo debitore di pensiero, ma insomma con lo Sturzo. Mentre oggi non saprei dire, a dire la verità, né voglio dire quelle che possono essere opinioni sbagliate mie personali rispetto al pontefice attuale. Ecco, siccome la causa di beatificazione andrà avanti, la mia domanda è: rispetto alla Chiesa di oggi, non solo italiana, il suo respiro universale. Che cosa vuol dire davvero questo processo verso l'onore degli altari? Procedere nel tempo, non processo in senso giudiziario. Cominciamo con Giovanni Palladino, per te? Ma guarda, io penso che sicuramente sarà di nuovo un grande protagonista il pensiero di Sturzo, perché è in linea sia con Giovanni Paolo II, come tu dici, sia con Benedetto XVI e anche con Papa Francesco, perché Sturzo voleva, vuole il rinnovamento morale e culturale del nostro paese, senza agganciarsi a vecchie ideologie che ormai hanno fatto il loro tempo, ed è contrario, ed è stato sempre contrario al capitalismo puramente speculativo, che lui chiamava il capitalismo stile Las Vegas, e che Papa Francesco chiama oggi l'economia che uccide, e che lui, e che noi diciamo economia dell'esclusione. Non dobbiamo demonizzare l'economia dell'esclusione, dobbiamo assolutamente includere tutti dentro. Quindi, scusa, ho sbagliato, dobbiamo demonizzare l'economia, certo, dell'esclusione, sì. Invece Sturzo diceva partecipazione. Quindi tu dici, insomma, non ci vedi un grande problema. Io, siccome ho un'impressione, ma è un'impressione umilissima, un po' diversa dai toni che usa Papa Francesco, nel senso che io ricordo praticamente a memoria i paragrafi della Centesimus Annus in cui si esprime un giudizio sull'economia di mercato, che quando io la lessi la prima volta rimasi dicendo, naturalmente le encicliche non si vedono in termini di svolta, vero, però alcune lo sono, e sulla dottrina sociale della Chiesa di fronte all'economia di mercato prima ancora della globalizzazione, devo dire, Giovanni Paolo II mi fece molto riflettere sull'importanza di quello che diceva a favore dell'economia di mercato. Però Giovanni Palladino dice non avere pregiudizi su Papa Francesco, la pensa allo stesso modo. Carlo Lottieri che dice? Ma io vorrei richiamare quello che dicevi tu a proposito di Salvemini, che sottolineava questa fede fortissima. Credo che si va a partire da lì, credo che lui vuole ricordarsi questa cosa, cioè che questa forte fede deve tradursi poi, come fu nella sua esperienza, in realismo. Il problema serio della Chiesa nel corso del tempo è che è stata poco fedele a questo realismo. Le grandi esperienze, no, penso a Tommaso naturalmente, o ad altri, a Rosmini che hai citato prima, ma quello che è importante è che per Sturzo questo realismo forte vuol dire anche capire ad esempio le leggi dell'economia, il rifiuto dello statalismo viene da lì, il rifiuto delle aziende pubbliche, dei finanziamenti di Stato, lotte ai monopoli. La fede deve portarti a amare la realtà, a capirla, a guardarla com'è, e questa è la grande lezione di Sturzo, non sempre seguita, e che questo Papa mi sembra intende molto poco. Ecco, quindi Lottieri, ma non mi meraviglia, ha un giudizio un po' più vicino al mio rispetto a quello ecumenico di Giovanni Palladino. Che pensa invece il professor Pombeni? Ma guardi, io credo che come in tutti i processi di canonizzazione, ciò che è l'oggetto, diciamo così, del contendere è la virtù eroica, no? Non è tanto, non sono tanto le idee, giusto, perché noi giusto, nella storia della Chiesa troviamo santi che hanno pensato tutto il contrario di giusto, tutto, no? Giusto. Ecco, allora che cosa rileva nell'esperienza di Sturzo? Questo coraggio eroico di essere da un lato un uomo del suo tempo con tutta la passione possibile e dall'altro lato un cristiano con la schiena dritta, uno che non si è piegato con dei prezzi personali spaventosi, perché naturalmente lei pensi questo viene preso, sbattuto via, prima mandato in Inghilterra, poi mandato in America, quasi cancellato, quando torna viene, per carità, viene anche fatto senatore a vita, però insomma viene messo un pochino da parte. Ciò nonostante lui rimane fedele a se stesso con questa virtù eroica, al di là del problema delle tesi che ha sostenuto. Allora, da questo punto di vista io credo che questo Papa, come i papi precedenti, non possono che avere ammirazione per chi si è comportato così, perché anche loro si comportano così, anche se hanno delle idee, certo, molto, molto magari un po' o molto lontane da quelle di Sturzo. Ma perché, lo chiedo sempre in questo caso appunto all'attento ricostruttore dei documenti della vita di De Gasperi, perché in un pantheon che poi di antifascisti all'estero, personale oggetto di campagne ventennali di avversione da parte di Mussolini, duce del fascismo. Lo Sturzo era in quel numero ristrettissimo di persone, lo è sempre stato sin dall'inizio, da prima che il fascismo prendesse il potere. Ma come mai? Abbiamo visto prima, sì, le sue idee non erano quelle che servivano alla mediazione per creare la Repubblica, ma neanche nel pantheon ristretto però degli antifascisti italiani all'estero è rimasto. Perché Pombeni? Beh, perché da questo punto di vista naturalmente lui, per la sua condizione sacerdotale, non poteva, diciamo così, mischiarsi alla lotta politica diciamo più quotidiana e militante, no? E quindi sa, giustamente questo universo degli antifascisti era un po' diffidente verso quest'uomo che da un lato ammiravano, poi dicevano beh, lui non ha fatto compromessi, è stato duro, eccetera, però dall'altro lato non viene con noi, adesso lo dico una battuta, no, per certo, intendersi, a manifestare. Per strada, ecco, capisci? E quindi Sturzo era un po' in questa posizione un po' strana di questo che stava lì, perché era prete, e allora essere prete era una cosa molto difficile. Pensi che ovviamente per il fatto di essere prete, Sturzo prima fino al fascismo non era in Parlamento, perché non poteva esserlo, tant'è vero che tutti, per esempio Vittorio Emanuele Orlando diceva ma come adesso qui c'è uno che non sta in Parlamento e che si permette di dettare la linea politica, che allora era una cosa che sembrava una cosa assolutamente intollerabile, oggi ci siamo abituati a ben altro. Non c'è dubbio. Va bene, io ringrazio i nostri tre ospiti, Giovanni Paladino, richiamo ancora il titolo di questo libro per Rubettino che è appena uscito, Don Luigi Sturzo, maestro di verità e libertà, e il professore Carlo Lottiero, professor Paolo Pombeni. Io sì, sono di quelli, lo avrete capito, che da 25 anni ho sperato che il pensiero di Sturzo tornasse a essere un punto di riferimento. Facemmo anche un settimanale libero più di 20 anni fa in cui tentammo di mettere in piedi iniziative in questo senso. C'è chi lo fa meglio di noi, il Centro Studi Internazionale Luigi Sturzo, e speriamo di avervi riavvicinato alla memoria di un grande, straordinario italiano, davvero. Continuate su Radio 24 e a questo punto appuntamento però domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva in diretta come sempre con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. A domani.